98.6兆赫，歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 Domanderemo, domanderemo, domanderemo, domanderemo, domanderemo,

rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosta gran signori, fatto sempre servitori, me ne vado sempre a me. Mi corbella nel brevetto, questo dunque è un romanzetto, questo dunque è un romanzetto, è una burla il principale. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, ma strappata al fin la maschera, io ritorno al mio mestiere, io ritorno al mio mestiere. Son Dandini il cameriere, son Dandini il cameriere. Rifarletti, spazzarabiti, far la barba e pettinar, far la barba e pettinar. Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe. Mi renda conto, mi renda conto, o non si ingomoli, non farà niente, o non si ingomoli, non farà niente, ma parta subito. Il mantinello, lo partirò. Lei partirà. Sono padrone, brillante pastore, ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo, ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci rivedremo. Le partirà. Ci rivedremo. Ci rivedremo. Ci parleremo. Ci parleremo. Prete pastore, le partirà. Le partirà. Tengo le cene, proteggo le cene, ma con un trapasso. Che passo basso, farò da fa. La cittadinanza, fate del mondo, sei che cosa, che è gridata, sei con un tempo, non ti girato, sei con l'età, la felicità. Similissime sono, affatto, quella è l'originale, questo è il ritratto, hai fatto tutto. Tutto? Perché quel ceffo brutto, voi mi fate così? Perché, per una certa strega che rassomiglia a te. Sulle tue spalle quasi mi sfogherei, temporale, un fulmine vorrei che cenerisse il cameriere. Ma dite, cosa è accaduto? Avete qualche segreta pena? Sciocca Bala, va a preparar la cena. Vado, sì, vado. Oh, che cattivo umore. È lo scudiero mio. Mi sta nel cuore. Sedia nobile. No, pochi minuti, altra carrozza pronta ritornerà. Ma che mi pare? Il grido Cenerento! Son qui. Danno al principe bestia. Eccolo lì. Questo. Ah, che vero principe. Arresta! Lo smaniglio è lei, che gioia è questa. Siete voi? Voi, non ci siete? Una sorpresa. Cos'è bello? Questo è un nodo affare. sviluppando, questo è un gruppo rintracciato, questo è un quota, questo è un gruppo, questo è un gruppo rintracciato, che sviluppa, questo è un gruppo, questo è un gruppo rintracciato, questo è un gruppo, questo è un gruppo. Questo gruppo rintracciato, questo gruppo sviluppato, questo gruppo rintracciato, chi sviluppa, chi sviluppa, chi sviluppa, chi raggruppa, e intanto la lentezza, la lentezza. Infantin lamentare. Il mio fulmine cadrà alle vili paventate, il mio fulmine cadrà alle vili paventate, il mio fulmine cadrà. Il mio fulmine cadrà. Già sapete da compegno, si mancava il secondo, ecco aperta la tragedia, tragedia, me la godo, me la godo, me la godo in verità, me la godo, me la godo, me la godo in verità, me la godo, me la godo, me la godo in verità. Sonni spunto, diventate un babbarucco, diventate un babbarucco. Buona serva, buona pace, tira mia, più freddo là. Oh! Sarà felice il caro alunno, in trono trionfa la bontà. Me! vicino, perché tremar, perché tremor, perché? A questo seno date. Figlia, sorella, amica, tutto provate in me. 感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的节目。

e quale Glorindina o ti svetta non giudica di lo dica d'un papà ma silenzi sa via dica presto non uccido dal culo in aria non si vede una mosca e un certo arcano che farà sbalordire sto sulle spine torniamoci a sedere presto per carità voi sentirete un cosa assai bizzarro chi volesse maritarsi con me mi raccomando ma si lasci servir sia sigillato quanto udrete dalla bocca mia. Io tengo in corpo una segreteria importanza, un arcano interessante, io vi devo palesar. È una cosa stravagante. Mi farà strasecolar un segreto di importanza. È una cosa stravagante, vi farà strasecolare, vi farà strasecolare. Senza batter, senza battere le ciglia, senza manco dare il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Sarò qui pietrificato. Ogni sillaba a contar. Senza banco, carreggiato. Starò qui pietrificato. Ogni sillaba a contar. Ogni sillaba a contar. L'uomo saggio e stagionato sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia come mai lo da trattare consiglier son già stampato ma che eccesso di clemenza mischia dunque sua eccellenza bestia altezza ad ascoltar ad ascoltar ad ascoltar abbia sempre prontezza la 30 sterdi piena gala 116 cavalli 116 cavalli buchi e conti e marescialli a dozzine convitati pranzi sempre congelati poi carrozze e poi bombe vi rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani che noi siamo assai lontani io non uso far dei pranzi mangio sempre degli avanzi non m'accosta gran signori tanto sempre servitori me ne vado sempre a me mi corbella e brevetto questo dunque è un romanzetto questo dunque è un romanzetto è un tavolo del principato sono un uomo mascherato ma venuto il vero principe ma strappata al fin la maschera io ritorno al mio mestiere io ritorno al mio mestiere son Dandini il cameriere son Dandini il cameriere rifar letti spazzar abiti far la barba e pettinar far la barba e pettinar di questa ingiuria, di questa affronto di questa ingiuria, di questa affronto il vero principe mi renda conto o lo si incomodi non farà niente o lo si incomodi non farà niente ma parta subito in mantire lo partirò le partirà solo parole ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo, ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci rivedremo. Non partirò, non partirò. Le partirà, le partirà. Ci rivedremo, ci rivedremo. Ci parleremo, ci parleremo. Prendi bastone, le partirà. Prendi bastone, le partirà.